Io sono una persona malata, sono una persona cattiva. Io sono uno che non ha niente di attraente. Credo di avere una malattia al fegato, anche se d'altra parte non ci capisco un'H della mia malattia e non so che cosa precisamente ci sia di malato di me. Non mi curo e non mi sono mai curato, anche se la medicina e i dottori io li rispetto. Per di più sono anche superstiziosa al massimo grado, o perlomeno quanto basta per rispettare la medicina. Sono abbastanza istruito da non essere superstizioso, ma sono superstizioso. No, signori, non mi voglio curare e non lo voglio appunto per cattiveria. Ecco, forse questa cosa voi altri non vi degnerete di capirla. Beh, io invece la capisco. Ovviamente non so spiegarvi a chi di preciso io intenda far dispetto in questo caso specifico con la mia cattiveria. So benissimo che nemmeno i dottori medesimi potrò in alcun modo farla sporca col mio non andar da loro a curarmi. E so meglio di chicchessia che così sto danneggiando unicamente me stesso e nessun altro.